Pennsylvania is gonna pick the next president. La profezia di Hillary Clinton potrebbe rivelarsi anche suo malgrado decisiva. In Pennsylvania, l'ultimo grande stato americano per numero di delegati in palio, potrebbe effettivamente decidersi la corsa alla nomination democratica per la Casa Bianca. Le ultime scaramucce tra la Clinton e Obama, al termine di una sempre più anemica e rissosa campagna elettorale, si sono concentrate per la maggior parte sul settore sanitario. It forces everyone to buy insurance. Lo staff di Obama ha trasmesso un messaggio pubblicitario in cui attacca il piano Clinton, insinuando che obblighi tutti i cittadini ad acquistare una polizza sanitaria, controreplica dello staff della Clinton che definisce menzogne gli attacchi del senatore afroamericano. Ma su questa nuvola di polemiche si stagliano due certezze. La prima è che Barack Obama ha raccolto nell'ultimo mese il doppio dei fondi elettorali rispetto all'ex First Lady, sempre più indebitata. La seconda è che se Obama riuscisse a perdere in Pennsylvania con un distacco minimo, la nomination si avvicinerebbe, anche per un fatto statistico. Gli basterebbe infatti ottenere la metà dei delegati nelle 9 primarie successive, un obiettivo a portata di mano. Per adesso intanto incassa anche l'appoggio del regista Michael Moore, autore di Fahrenheit 9/11. Sergio Navagere 24, Il Sole 24 Ore.